Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, testa a testa continua. Il capitolo di ieri ha visto le vittorie autorevoli, prima del Napoli, che quindi aveva raggiunto il Milan per qualche ora, e poi la risposta puntuale del Milan. Sabato e domenica andrà al contrario, perché toccherà al Milan giocare per primo in casa contro la Sampdoria, e poi questo sabato per l'appunto, e poi domenica sera a chiudere la giornata di Serie A sarà il Napoli contro l'Udinese. Sullo sfondo l'Inter rimane a 5 punti, ma insomma l'impressione è che l'Inter al momento abbia altre cose a cui pensare, per esempio alla partita di mercoledì, per cui è stato designato come arbitro, notizia appena battuta dalle agenzie, lo sloveno Skomina. Sarà lui a dirigere a Gelsenkirchen il tentativo folle, la folle idea che l'Inter sta provando a mettersi in testa di provare a rimontare il 2-5 casalingo con un 4-0 o con un 5-1 in casa dello Schalke 04. Qualche curiosità innanzitutto, prima di ripassare attraverso dei contributi vocali, come ogni lunedì, e in attesa delle vostre prenotazioni all'800 24 0024, qualche curiosità numerica su questa giornata. Beh, intanto è molto lusinghiero, sono molto lusinghieri i numeri per quanto riguarda Pato è arrivato al cinquantesimo gol in Serie A in 98 partite, quindi ha davvero una media altissima. Ha raggiunto Ibrahimovic a quota 14 gol in stagione, sono 19 i punti che i suoi gol hanno fruttato. Ha una tradizione molto favorevole contro la Fiorentina, perché in 5 partite contro la Fiorentina Pato ha sempre segnato, e 4 volte fuori casa, ma soprattutto di questi 50 gol Pato non ne ha segnato nemmeno uno sul calcio di rigore. Ora, a 21 anni, aver già segnato 50 gol in Serie A, sia pure giocando in una squadra di vertice, ma senza nemmeno un calcio di rigore, beh, insomma, cominciano a essere numeri che contano. Al contrario, il suo partner d'attacco invece comincia a avere dei numeri un tantinello più negativi, non tanto perché sono abbastanza ricorrenti i cali di Ibrahimovic nei gironi di ritorno. Sta succedendo anche quest'anno, ma era già successo in 5 delle ultime 7 stagioni, compresa quella di Barcellona, ma perché le due espulsioni di quest'anno, due espulsioni consecutive nel giro di 3 partite, che gli frutteranno grosso modo da un minimo di 2 ad altre 3 giornate di squalifica, insomma, lo portano abbastanza in alto nella classifica delle espulsioni. Se calcoliamo anche le partite di Coppa Italia e di Coppa Internazionali, in questi anni italiani Ibrahimovic è arrivato alla 7ª espulsione, 2 con la Juventus nella stagione 2005-2006, un Juve-Bayern di Champions e un Roma-Juve di Coppa Italia. Poi 3 nell'Inter, di nuovo un Inter-Bayern, quindi c'era col Bayern evidentemente, di Champions, un Parma-Inter di campionato, un Lazio-Inter di campionato, e adesso queste due così ravvicinate. Tra l'altro, guardando un pochino il calendario delle prossime giornate, in particolare della prossima, l'impressione è che se c'era una partita in cui un apriscatole come Ibrahimovic serviva, era proprio Milan-Sampdoria, perché la Sampdoria è arrivata, altra statistica molto significativa e molto negativa in questo caso, è arrivata la 5ª sconfitta casalinga di fila, che significa aver eguagliato il record negativo del 75-76. Quindi in casa, da quando se ne sono andati Pazzini e Cassano, non c'è più verso di fare punti. Sì, un gol ieri, ma un gol quasi a tempo scaduto, che è stato solo il classico gol della bandiera, mentre invece fuori casa la Sampdoria si sa difendere, ha una difesa molto organizzata, e quindi probabilmente Ibrahimovic sarebbe servito in maniera particolare, magari non l'Ibrahimovic di ieri, che prima di farsi saltare i nervi si è capito che non era in grande giornata, e probabilmente i nervi gli sono saltati anche per quei 2 errori che avrebbero chiuso anzitempo la partita, mentre invece c'è stata quella sofferenza finale dovuta proprio anche al fatto di essere rimasti in 10 contro 11. E allora, visto che Pato, per i motivi che ho detto prima, per i 50 gol in 98 partite in Serie A senza nemmeno un calcio di rigore, è un po' il personaggio copertina di giornata insieme a Mascara, cominciamo da Pato su questa vittoria a Firenze. Pensiamo a vincere tutte le partite, non solo questa. Siamo tutti contenti, abbiamo fatto 3 punti, che era quello più importante. Adesso è dimenticare questa partita e studiare anche, guardare dove abbiamo sbagliato e adesso è pensare avanti. No, devo sempre fare il mio meglio nelle partite. Sono uscito dal campo soddisfatto del mio lavoro, anche della squadra. Passando ancora una volta qui, però penso solo a fare il mio meglio per la squadra. Questo era Pato. Il prossimo che ascoltiamo invece è Mascara, che ha fatto le veci nel migliore dei modi ieri di Cavani a Bologna, segnando il gol che ha orientato, e poi in realtà ha anche deciso, ma insomma in ogni caso ha orientato la partita a metà primo tempo. Mascara. Era importante perché non era una partita semplice. Loro venivano da una brutta sconfitta, quindi ci tenevano a far bella figura tra la propria gente, però noi eravamo motivati, ben carichi e sicuri di venire a fare risultato. E devo ringraziare soprattutto i miei compagni che hanno avuto molta, molta pazienza ad aspettarmi, poi la società che ha creduto in me e nella mia famiglia, che in questo periodo un po' così così mi è stata molto, molto vicina. Un grazie a tutti loro. L'importante è non montarsi la testa e continuare a lavorare con tanta, tanta umiltà. Due vittorie autorevoli, dicevo, sia quella del Napoli nel pomeriggio, a cui con altrettanta autorevolezza il Milan ha risposto in serata, al punto che secondo qualche ascoltatore, adesso ne cito uno a caso con calma se riesco a ritrovarlo, ecco, Massimiliano scrive che sia le partite di Milan che di Napoli sono d'ufficio inchieste. Io non credo assolutamente, credo che insomma, sia il Bologna che la Fiorentina sì, hanno preso gol un tantinello presto, però non mi è sembrato di vedere compiacenza, mi è sembrato di vedere due squadre assolutamente convinte del fatto di volerla vincere quella partita, di volerla incanalare in un certo modo il più presto possibile, e che sono state brave a fare proprio quanto segue. Io non vorrei che prendesse piede il discorso di Lotito, no? Di questo ridicolo discorso di questa task force che da ora in poi dovrebbe vigilare sulla regolarità del campionato. Quella annunciata ieri, e sto leggendo una dichiarazione del direttore generale della Federcalcio, Antonello Valentini, quella annunciata ieri dal presidente Lotito, è un'iniziativa della Lazio, ovviamente legittima, ma privata e autonoma. È chiaro, ha continuato Valentini, che questa iniziativa non ha alcun carattere istituzionale e non può richiamare o essere collegata ai ruoli di rappresentanza che il presidente Lotito riveste in seno al Consiglio federale e al Comitato di Presidenza della FIGC. I compiti istituzionali della FIGC in questo campo, ha concluso Valentini, sono demandati alla Procura federale, che come sempre per ogni turno di campionato garantisce attraverso i componenti dell'ufficio il controllo gara e il controllo prova TV su tutti i campi di Serie A e di Serie B. Questo giusto per rimettere un qualche puntino sugli i e per spiegare come insomma, dichiarazioni e iniziative di questo genere facciano parte della normale demagogia di fine stagione, su cui poi presidenti come Lotito si esercitano per la verità durante la stagione intera. Dalla regia segnalano intasamenti di centralini. Allora, io prima di dare la parola a voi sentirei ancora un intervento, che è quello di Cavasin, allenatore della Sampdoria. Ritorno ai numeri di Franco Piantanida, e non c'è dubbio che i numeri sino ad ora non condannino ancora, ma certamente sono abbastanza chiari per quanto riguarda la Sampdoria in assoluto, e però in dettaglio anche Cavasin, che da quando è subentrato alla guida della squadra al posto di Di Carlo ha registrato 3 sconfitte in 4 partite con un gol fatto e 4 subiti. Pensate che nel girone di ritorno ha fatto più punti persino il Bari della Sampdoria, che chiude questa classifica del ritorno appunto con soli 6 punti totalizzati, ed è davvero un bottino che a questo punto mette la Samp in grave pericolo di retrocessione, perché insomma, poi al di là dei punti che ci sono in classifica, ci sono anche le sensazioni, no? C'è un riscontro a come le squadre stanno giocando e non c'è dubbio che in questo momento sia il Cesena davanti che il Brescia un pochino più dietro diano la sensazione di essere un po' più in condizioni, insomma, un po' più combattivi di quanto non siano subito avanti al gradino di quota 32 sia la Sampdoria che anche il Parma. Allora sentiamo Cavasin. Ma non è un pensiero che mi è venuto, a domanda rispondo che non ci penso. Posso dire che chi può prendere decisioni e mi mandi a casa fa peggio del peggio, quindi per quel che mi riguarda, perché la vedrei così, ma siccome non sono io che decido di me stesso, chi dovrà decidere o può decidere che faccio pure tanto. Non, penso di aver messo a posto tante cose, tantissime. Però magari le dirigenze non ci pensano a queste cose in generale, no? Condizione fisica, gruppo che aveva dei problemi, giocatori che erano malati, ma tante cose. Classico di una situazione che una società prende una decisione perché ci sono dei guasti. Direi tutto normale, Questo era Cavasin, a proposito anche di voci che hanno preso a circolare sin dal dopo partita di ieri di un possibile esonero, contro esonero di Cavasin e di un ritorno magari sulla panchina blucerchiata di Carlo, secondo una moda che risale già ormai a qualche stagione fa e che quest'anno è stata rinverdita in Serie A a Palermo con Delio Rossi e a Torino in Serie B con Lerda. Io ringrazio in particolare parecchi ascoltatori per il momento che mi hanno evitato la fatica di ricordare a proposito di Lotito delle sue tax force, magari chi ha qualche scheletrino dell'armadio farebbe bene prima di scagliarsi su altri o di fare allusioni indirette a pensare alle cose dirette di cui è stato responsabile in passato. Per cui Andrea Pinerolo scrive: ma mi ricordo solo io di Lazio Inter dell'anno scorso, e poi continua con altre considerazioni. Gregorio da Catanzaro: ma parla proprio Lotito? Quando Lazio Inter della passata stagione fu una delle vergogne calcistiche del bel paese. Mirko da Bologna: ma la Lazio non è quella squadra che lo scorso anno stese un tappeto rosso per l'Inter facendoci vergognare, eccetera eccetera. Quindi per dire grazie di questo contributo. Giuseppe Bergamo, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Mi ha bruciato la domanda. La mia domanda voleva essere: secondo lei quest'anno la Lazio in che campionato avrebbe giocato dopo, se ci fossero state questi benedetti controlli e le ultime 6 partite di campionato come Lotito le chiedeva? L'ho detto fin dall'anno scorso e dall'indomani, avrebbe certamente giocato in Serie B, ma non occorrevano task force, bastava che l'ufficio inchieste e la procura federale avesse operato come si operava negli anni passati, come si operava storicamente nel calcio italiano, quando per la legislazione sportiva, per i tribunali sportivi bastava avanzava il sospetto, o comunque che poi quel giorno era qualcosina più di un sospetto, no? perché rimane una delle domeniche più vergognose della storia dell'intero calcio italiano, quella. Non è colpa nostra. Io in genere sono abituato a non rimangare questi episodi, perché insomma il bello del calcio è il cosa fatta capo A e dopo non se ne parla più, però insomma, credo che un minimo di pudore, quando per l'appunto ci sono episodi precedenti di questa gravità, suggerirebbe insomma di lasciar perdere i riferimenti. Vedo che voi la memoria ce l'avete in un buon posto. Giuseppe, grazie. Andiamo a Reggio Emilia da Vincenzo. Buongiorno. Pronto? Dica Vincenzo. Buongiorno dottore. Ti volevo fare una domanda. Visto che hanno disegnato gli arbitri per la Champions, tornando indietro, parlando dell'Inter, sono tifoso interista, come mai all'andata è stato disegnato un arbitro inglese quando le due che avrebbero vinto passando il turno andavano contro una squadra inglese? Perché l'UEFA è al di sopra di questa ridicola cultura del sospetto che abbiamo in Italia. Vede, io, io non faccio il dirigente di una squadra di calcio, ma se la squadra di calcio di cui fossi eventualmente dirigente fosse, non so, l'Arezzo, voglio dire, e dovessi giocare contro, sto guardando nomi di città da cui stanno arrivando i messaggi gli ultimi, e dovessi giocare contro il Livorno, io tra un arbitro di Arezzo e uno di Livorno non sceglierei niente, ma mi augurerei l'arbitro più bravo. Se l'arbitro più bravo è quello di Livorno, vorrei essere arbitrato da quello di Livorno. Diciamo che l'UEFA in genere ragiona questa maniera. Noi siamo abituati da secoli di comuni e di signorie a ragionare evidentemente in termini un pochino diversi, fermo restando che nel caso in cui la sua domanda sottintendesse qualcosa di irregolare, non riesco a ricordare nulla di irregolare o nulla di significativo dal punto di vista arbitrale in Inter Schalke, ma proprio davvero nulla. Leggo invece in un'ultima ora di Sky Sport 24 che Samuel è tornato ad allenarsi in gruppo dopo 153 giorni dall'operazione al ginocchio destro ed è stato convocato per la partita di Gelsenkirchen. Dove sono, caro Garanzini, scrive Daniele il camionista. Ah, beh, Daniele il camionista è un affezionato decennale ormai di questo programma. Dove sono tutti quei personaggi, anzi tifosi del Milan, che dicevano che Seedorf non era più un giocatore di calcio? Non lo so, me lo domando anch'io da qualche settimana, caro Daniele, da dopo il derby, per esempio, da dopo ieri sera, ma anche già da qualche momento prima. Bisognerebbe sentire loro. Michele Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Senta, io volevo fare una domanda proprio sulla dichiarazione di ieri, sia di Lotito che di De Laurentiis. Sì. Lascio perdere quelli di Lotito, sì, che però hanno trovato molto spazio, forse parla perché si parla di ridicolo, credo. Mentre le dichiarazioni di De Laurentiis, premetto che non mi è molto simpatico, come non mi è molto simpatico Mazzarri, quindi non sta a me, però devo dire che ha detto delle sacrosante verità. A sostanza ha detto soltanto che in Italia si parla, quando si parla di calcio, di Juve, Milan e Inter, e forse poche volte si parla di altre squadre. Insomma, ha fatto una critica ai giornalisti e a chi fa informazione. Cioè, come mai non si è parlato molto di queste, credo, sacrosante verità? Credo di parlare a nome di tutti gli altri, mezza Italia che non è di Juve, Milan e Inter, tutto qua. Non lo so, non, sinceramente mi sono perso queste dichiarazioni di Laurentiis. La mia domenica ne è certamente risultata un po' impoverita, ma insomma grosso modo poi si è ugualmente conclusa in maniera passabilmente soddisfacente, e credo faccia parte insomma di una... lei ha detto sacrosante, può anche darsi che lo siano, eh? Io De Laurentiis sacrosanto, cioè l'aggettivo mi risulta vagamente incompatibile, ma certamente in questo caso sarò io che mi sbaglio. Proviamo a documentarci e poi ne riparliamo, grazie. Anche a Brescia è tornato Iachini, sottolinea Gianluca da Pordenone, e ha perfettamente ragione, perché Iachini è un altro cavallo di ritorno, un altro di quei va e vieni, in questo caso voluto dal presidente Corioni. Dunque abbiamo Michele da Torino, già intervenuto, perché il display, ripeto, oggi è particolarmente abitato, popolato da richieste di intervento. Marco in linea da Como invece, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sono un tifoso milanista, soddisfatto, ma non ancora, diciamo, proprio con un entusiasmo, non lo so, ho ancora un pochino paura, sono ancora un pochino di timore, diciamo, per le prossime partite, soprattutto per quanto riguarda il nostro attacco. Due cose solo velocissime che le volevo dire. Una su Comotto: essendo il Torino la mia seconda squadra ed essendo stato lui il capitano del Torino, ecco, me lo ricordavo più leale, più... insomma, quel rigore lì non lo doveva tirare in ballo assolutamente, perché non c'era. Seconda cosa invece... No, non c'era, Marco, però se parliamo delle proteste a fine gara, sì, se parliamo dell'episodio si tengo tutte e due, quindi non è che sia particolarmente sleale. C'è Comotto che cerca di smanettare su Seedorf e Seedorf che cerca di smanettare su Comotto. Chi dei due abbia cominciato, sinceramente non è facilissimo da stabilire in base alla telecamera. Quello che è giusto è che l'arbitro abbia ignorato l'episodio, però non mi è sembrato particolarmente sleale, mi è sembrato una di quelle cose che in campo ci possono stare. Lo dicevo prendevo solo in considerazione del fatto che ho sentito parlare di scandalo, insomma non mi sembra. Ma per l'amor di Dio. L'altra cosa invece che mi interessava un pochettino di più è Van Bommel, che è un giocatore che non mi è mai sembrato, insomma, di qualità. Invece ieri l'ho visto veramente giocare bene, quindi comincio a pensare che forse è un giocatore da Milan anche per il futuro, malgrado l'età, malgrado tutto, e volevo avere un suo parere, ecco. Boh, insomma, io non costruirei le squadre sui Van Bommel. Io credo che, così è questa opinione assolutamente personale, io credo che il Milan sia stato molto bravo quest'anno, a gennaio, quando si è trovato ad aver perso Ambrosini, e per molto tempo, perché stiamo vedendo adesso che razza di infortunio era quello di Ambrosini, no? Ormai parliamo di mesi. Quando c'era problemi gravi per Ambrosini, problemi comunque... presenti anche per quanto riguarda Gattuso, insomma un centrocampo che aveva perso per un certo periodo di tempo interpreti di, come dire, di combattimento, no? Quindi gregari, ma gregari di grande esperienza, di grande personalità. Beh, a quel punto andare a prendere Van Bommel, e cioè a sua volta un gregario a parer mio, ma un gregario di grande esperienza e personalità e qualche eccesso agonistico di troppo, è stata un'eccellente operazione. Da lì a costruire su un 34enne che randella come un lasciamo perdere, io ci penserei seriamente. Qualche altro numero significativo sempre fornito da Franco Piantanida: per esempio la Lazio è la squadra che ha fatto 19 punti su 21 nelle ultime 7 partite in casa, e quindi questo vuol dire che dal punto di vista casalingo ha tutte le carte in regola per puntare al quarto posto, e quindi alla Champions. Ma in trasferta ne ha fatti solo 5 nelle ultime 7 di partite, e dato che mancano 6 giornate ne avrà 4 fuori casa, ecco perché questo quarto posto è tutto da giocare ancora. Ma a proposito di Lazio, continuano ad arrivare messaggi. Andrea da Pescara dice: ma la task force di Lotito dovrebbe occuparsi anche del risultato dell'anno scorso con l'Inter? Oppure Dennis Cancian, che scrive che il presidente della squadra, che lo scorso anno si rese protagonista di Lazio-Inter, chieda una task force per monitorare la regolarità del campionato, fa un po' ridere. Ma sì, Dennis, io credo che la prima volta o le prime volte che questi personaggi si esibiscono in questo modo facciano un po' ridere, poi dopo un po' fanno piangere, secondo me, perché sinceramente io lo trovo più triste e avvilente che non divertente. Anche se la dialettica di Lotito indubbiamente quel pizzico di cabarettistico ce l'ha, e non da oggi. Karim ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottore. Dica. Io, da tifoso milanista, io credo che il Milan ha i punti, i mezzi per vincere il campionato quest'anno. Ma la mia domanda non è per il Milan, ma per un giocatore che è arrivato al Napoli in prestito. Sarebbe l'algerino Yebda. Yebda, sì. Vorrei una valutazione tecnica da lei che capisci di calcio. Senza esagerare. Questo giocatore... sulla sua chance per la conferma, ecco, al Napoli. Io, grazie, grazie a lei, Karim. A me sembra che quando è chiamato in causa la sua parte la faccia. E c'è una cosa che mi piace del Napoli, indipendentemente da ogni lotta, da chi vince, chi non vince, eccetera. Mi piace del Napoli questo suo modo. Che dipende anche da una certa fortuna di salute, adesso ci arrivo con calma. Questo suo modo di interpretare il calcio in una maniera un po' vecchia maniera nel senso migliore, e cioè non ci sono 25 giocatori, non ci sono, o se ci sono comunque non vengono utilizzati. Il Napoli viaggia dall'inizio su un nucleo fisso, su questi tre attaccanti che sono certamente nella suggestione popolare sono gli eredi della magica, cioè di Maradona, Giordano, Careca, piuttosto che Carnevale in un'altra cosa, ma insomma oltre a questi tre gli altri sono dei, non dico gregari, ma insomma sono dei giocatori invece di caratteristiche diverse, ma la squadra grosso modo è sempre quella. Yebda è uno dei pochissimi ricambi che il Napoli si permette. Questo, dicevo, è dovuto anche ad una ad una se guardiamo ad altre squadre, gli infortuni di altre squadre è una discreta fortuna dal punto di vista della salute, ma poi in questi casi la fortuna è anche un merito, intendiamoci, perché più ti prepari bene, più sei più fai vita sana e cose, meno possibilità di infortunarti. Quindi questo mi piace. E Yebda in questo è una buona alternativa che mi pare, a cui mi pare Mazzarri ricorra abbastanza di frequente, ma è una delle poche. Diego Taranto, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, cercavate un tifoso milanista, eccomi qui per parlare di Senos. E dico con tutta serenità, cioè a proposito di quell'ascoltatore che appunto ha mandato il messaggio, io sono tra quei tifosi milanisti che ritengono Senos sicuramente tra i primi 5 giocatori al mondo come forza, come bontà tecnica e tutto, però sono anche tra quei tifosi milanisti che, siccome seguiamo tutte le partite del Milan e su 10 partite del Milan, per dirle, Sedors ne fa 2 buone e 8 purtroppo malvagie, non perché non ci sia la qualità tecnica, perché manca impegno in quelle partite. Ecco, è facile giudicare quando le partite non si vedono tutte. Sedors, ripeto, è fortissimo, ma quando gioca, ecco, volevo dire solamente questo, aspetto la sua risposta. La mia risposta è che nel tifoso, se non c'è l'eccesso, non è tifoso, nel senso che Sedors tra i primi 5 del mondo, secondo me, non è mai entrato e non entrerà mai nemmeno in una classifica strettamente contemporanea di giornata, credo, questo lo dico con enorme stima per Sedorf come calciatore. Che su 10 partite Sedorf ne giochi 8 in maniera malvagia, beh, insomma, credo che soltanto essendo molto prevenuti si possa sostenere una tesi di questo genere. Raffaele dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, Garanzini. Senta, io sono un tifoso giallorosso della Roma. Volevo sapere cosa ne pensa di quella gente che dice che Totti è il male, è più un danno che un aspetto positivo per la società, per la squadra. Poi volevo sapere la cosa più importante: cosa ne pensa di questo passaggio di proprietà a questo italo-americano di Benedetto? Secondo lei è un personaggio affidabile, visto che i documenti sono stati controllati dall'Unicredit, o andiamo incontro, insomma, delle spiacevoli sorprese? Ecco, vorrei queste due risposte, grazie. Raffaele, non, cioè io posso rispondere per la prima, per la seconda posso soltanto avere qualche riserva che ho spugnato qui dal Sole 24 Ore e da colleghi del Sole 24 Ore che sono abituati a muoversi a loro agio, e non parlo solo di Marco Bellinazzo, a muoversi a loro agio tra vicende e personaggi legati al mondo della finanza, come in questo caso. Io credo, facciamo così, io credo che, visto che lei è insomma, una domanda verteva sull'importanza di Totti e l'altra sulle speranze su Di Benedetto, io mi fiderei più di Totti che di Benedetto. E per il momento finiamola qua, in attesa di ulteriori novità. Certo, come Marco Bellinazzo, esperto del Sole 24 Ore, che spesso mi fa compagnia in questo programma e che avete imparato ad apprezzare e a vostra volta a frequentare, no? Radiofonicamente, questa vicenda sta durando abbastanza tanto e avrebbe dovuto essere chiusa da parecchio tempo. Il fatto che ci sia stata questa ulteriore delazione, che la vicenda finisca poi a Boston, non ricordo bene in che tempi ulteriori, insomma, non è una rassicurazione totale. Bruno ha chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Due cose, una domanda. Io fino a 2 giorni fa è scommesso sull'Udinese per il quarto posto, perché stava giocando un calcio incredibile. Ora, dopo la prima sconfitta, ho detto: ora dopo 2 sconfitte veramente non saprei proprio chi può riprendere questo posto per la Champions. E la seconda era che in questo finale di campionato io, come tanti altri, tifiamo Napoli, compreso anche Prandelli, in quanto sarebbe bello vedere una squadra non di primissima fascia vincere il campionato, anche perché dimostrerebbe squadra, anche se non di primissima fascia come le classiche Inter e Juventus, se ben organizzata e con dei giocatori giusti, può vincere lo scudetto. E comunque ha dimostrato, anche se non lo vincesse, che non bisogna chiamarsi per forza Inter, Milan e Juventus. No, certo. certo. Dopo tutte queste discorsi sugli arbitri, sulla sudditanza, secondo me sì, è vero, non è che non esista quel discorso lì, esiste, ma forse gli si dà più importanza di quella che in realtà è in Napoli lo dimostra. Beh, il Napoli lo dimostra fino a un certo punto, perché non è che il Napoli sia una a differenza di quello che tentano di far credere De Laurentiis, Mazzarri e compagnia, non è che il Napoli sia una società di diseredati dal punto di vista della considerazione, dal punto di vista del trattamento, ma soprattutto io non parlo di sudditanza psicologica, parlo di fattore campo, soprattutto dal punto di vista del fattore campo. Lei stia pur certo che dalle partite interne del Napoli, quando si arriva a fine stagione a fare la somma, è difficile che questa somma sia veda un saldo negativo che invece ci può essere per quanto riguarda le partite esterne, ma diciamo che i maltrattati storici, semmai sono altri, insomma, non credo che c'entri il Napoli. Quanto all'Udinese, sì, capisco quello che lei dice, bisogna vedere se questi due, perché c'è una ricca e lunga tradizione storica delle squadre di Guidolin che flettono nettamente nella fase finale del campionato, è quasi sempre accaduto in quasi tutte le sue squadre. Quest'anno si pensava di no, io per primo pensavo di no, perché l'Udinese era partita molto molto male, quindi poteva darsi che ci fosse stato, può ancora darsi che ci fosse stato un cambio di rotta, un cambio anche di preparazione, no? quindi di gradualità superiore. E per il momento è ancora possibile che sia così, che si tratti cioè di una flessione di due partite, tra l'altro anche sfortunate, soprattutto l'ultima. La riprova arriva domenica sera al San Paolo con Napoli Udinese. Torniamo in onda con con il ripasso di una giornata sportiva, in questo caso l'11 di aprile, a cura di, come sempre, di Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 aprile 1973, semifinale d'andata di Coppa dei Campioni. Al Comunale di Torino, la Juventus di Vic Palek ospita il Derby County di Brian Clough, rivelazione del calcio inglese. I bianconeri passano dopo 27 minuti con Altafini, ma vengono raggiunti dopo soli 120 secondi. Nella ripresa, la squadra di Vic Palek prende il sopravvento e va a segno due volte, con Causio e nuovamente con Altafini. Al Baseball Ground, la Juve riuscirà a strappare un pareggio senza reti che varrà la qualificazione alla finale di Belgrado, persa poi contro l'Ajax. Nei mesi successivi, la gara col Derby County tornerà ad attualità per un'inchiesta del Sunday Times circa un tentativo di corruzione da parte della Juve nei confronti dell'arbitro della partita di ritorno, il portoghese Mark Schlobo. Ma l'UEFA aveva già condotto un'inchiesta che si era chiusa senza sanzioni. È un episodio che lasciò poi degli strascichi, comunque, questo è ricordato da Nicola Filippone. Al sud, allora, ci si infortuna di meno, si domanda Roberto da Arezzo, e poi aggiunge: Palermo, Lecce, Catania, Cagliari sembrerebbero dimostrarlo, il Bari no. Credo che Seedorf, scrive Gaetano da Lucca, oltre a essere un gran giocatore sia anche uno che tira su la media intellettiva della classe che rappresenta, ma questo al tifoso non interessa. Temo proprio che lei abbia ragione su tutti e due i fronti, cioè nel senso che questo al tifoso, salvo eccezioni rarissime, interessa davvero poco, ed è un peccato perché Seedorf, insomma, stiamo parlando in quella categoria, stiamo parlando di uno abbastanza fuori categoria. Marco ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei, Garantini. Volevo fare una riflessione su Ibrahimovic. Sì. Non crede che ultimamente stia pagando un po' il fatto di essere diventato ai più antipatico e di avere, come dire, di ricoprire la carica di mercenario che in realtà, secondo me, un po' si merita ultimamente? Voglio dire, l'espressione di ieri non mi sembrava così motivata. Ecco. Beh, è a 3 metri a guardaline, vuole che le ripeta e le dettagli esattamente cosa ha detto al guardaline, oppure è in compagnia magari di bambini e di cose, quindi lasciamo perdere. Si fida? Della cosa, mi fido di quello che dice lei. Si fidi, è a 3 metri, a 4 metri a guardaline, e gli dettaglia in faccia una serie di insulti che non... Poi è vero che ci sono arbitri che fan finta di magari di non sentire, fan finta, c'è il giudice di gara, in questo caso stiamo parlando di un assistente, non di un arbitro, c'è il giudice di gara che può essere più o meno permaloso, può essere, ma se vogliamo lasciar perdere quella discretamente risibile versione finale che tutto il Milan, a cominciare da Ibrahimovic ovviamente, si è affannato a sostenere, cioè che Ibrahimovic stava autoflagellandosi, in realtà stava insultando se stesso per quel pallone trascinato in fallo laterale. Cioè, se per una volta cerchiamo di non prenderci in giro, come ieri sera per una mezz'ora buona si è lasciata prendere in giro quasi tutta la TV italiana, soprattutto quella di servizio, allora dobbiamo, possiamo invece spostare il tiro, spostare il ragionamento su un altro piano, e cioè che c'è chi è più permaloso e chi meno. È vero però che se quelle cosine te le dicono in faccia, ripeto, a distanza di pochi metri, e tu hai, come dire, la sensazione che non appartenga al repertorio dell'autocritica, come poi Ibrahimovic ha detto, ma sia invece destinato a te, può anche darsi che tu decida a quel punto in auricolare di dire all'arbitro: guarda che ma appena detto quanto segue, che l'arbitro arrivi con un cartellino rosso. Davide ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Dica. Senta, questo signor Di Benedetto pare, non sia proprio attendibile come acquirente. Ma allora non potrebbe essere un caso di possibile speculazione finanziaria ai danni della Roma? Ve lo chiedo a voi perché lei c'ha i giornalisti adatti in redazione per poter dire a spiegare una cosa del genere. È una delle ipotesi che non è che la scopriamo oggi, però Davide, ne abbiamo parlato tanto diciamo pure negli ultimi due mesi, nell'ultimo mese in particolare, stanno continuando a seguire questo argomento, ma ripeto, non è che questa sia un'ipotesi inedita, anche perché non sarebbe il primo e non sarà l'ultimo, in ogni caso, finanziere che nella peggiore delle ipotesi si è inserito e ha vissuto lo spazio di un mattino provando a fare chissà quale colpo, e magari invece è una persona di rarissima serietà che soltanto è andato un pochino lentamente avanti in questa trattativa. Nini ha chiamato da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Signor Granzini, io ho chiamato anche un paio di giorni fa. Sono tifoso rimanista e ho chiuso perché era la prima volta che parlavo, ero un po' emozionato, no? Sì. Volevo dire per il signor Lotito che mi senta? Pronto? Nini, forte e fin troppo chiaro, temo. Comunque sì. lei provi a proseguire. Signor Lotito, secondo me è la sua maniera per far pressione con gli arbitri, no? Mi ricordo la partita contro la Roma, per non fare la prova televisiva contro Matusalem, ha messo in scena la storia dell'Eiser che non poteva vedere, queste storie qua. Secondo me è solo le stesse sceneggiate, non fa pressione contro gli arbitri. E l'altra cosa che volevo dire, se mi permetti, sì. Mi ricordo al tifoso interista che ha detto che perché era l'arbitro inglese, quando vi ricordo che l'anno scorso l'Inter già era passato in finale e Rosetti ha buttato fuori Ribéry. E fin qua siamo arrivati. Grazie Nini. Dice buongiorno, ma allora Gattuso è sempre andato bene, scrive Antonio. Sì, effettivamente Gattuso è uno di quelli che agli arbitri devono essere simpatici, perché se per caso fosse uno che gli era un po' antipatico, ok. Però a proposito dell'ascoltatore di prima, non quest'ultimo Nini ma il precedente, che diceva che si chiedeva se per caso non ci fosse un'escalation di antipatia nei confronti di Ibra, ma io questo non direi, perché il presupposto da cui partiva l'ascoltatore è che Ibrahimovic una volta fosse simpatico, a me non risulta, cioè non, se parliamo di me, vabbè, io sono fuori parametro, però dire che Ibrahimovic sia mai risultato particolarmente simpatico mi sembra un'ipotesi un tantino azzardata, ma credo che valga per per tutti i posti in cui è stato, al di là poi della singola tifoseria che sul momento si può eccitare trattandosi di un giocatore di quel livello, ma se parliamo di simpatia mi sembra un po' un'altra storia. Daniele, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, io l'avrei voluta già chiamare settimana scorsa riguardo a Chievo-Sampdoria, dove anche lì si parlava di una presunta, se non combina, compiacenza delle due squadre. La mia considerazione era questa: a me pare che soprattutto per il campionato di Serie B abbiano inserito apposta playoff e playout, e forse anche il discorso dei tre punti l'ha inserito per dare, diciamo, più stimoli e più obiettivi a più squadre possibile, per evitare queste situazioni di partite più o meno accomodanti. Se così è vero, probabilmente la cura però non è servita a curare il malato. No, perché io trovo che sia servita, come tant'è vero che Chievo-Sampdoria è andata a quella maniera, come si sospettava prima, ma la Sampdoria ha sbagliato i conti. Cioè, mentre una volta quello 0-0 di Chievo-Sampdoria, supponendo eccetera eccetera eccetera, avrebbe funzionato, stavolta non ha funzionato, perché ha funzionato per una squadra al momento, ma per l'altra un tantinello meno. Io credo che i tre punti siano, e come, tuttora un deterrente che basta. Fermo restando che io non credo nemmeno ai playoff e ai playout come sistema. Io credo solo alla lealtà sportiva in assoluto, ma siamo allo scadere e questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. Grazie Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanide in redazione. A domani.